Fanobile, un programma di Radio Spore. Era una notte fredda e nebbiosa quando l'addetto al carico e scarico merci decise di fare un salto al Megastore, il minuscolo negozio di dischi sotto i portici. Mentre si addentrava tra gli scaffali del negozio, notò qualcosa di strano. C'era una botola nascosta, una stanza segreta piena di polvere, e lì, in un angolo, una pila di musicassette, vecchie, polverose, ammuffite e misteriosamente classificate. L'addetto al carico-scarico le sfiorò e immediatamente cominciò a sentire una strana sensazione. Le spore che avevano attaccato le musicassette gli stavano trasmettendo una serie di poteri sonici e capacità cyberpunk, trasformandolo in un DJ radiofonico mutato. Da quel momento in poi, ogni volta che inserisce nel registratore una musicassetta ammuffita, egli è dotato per tutta la durata del nastro di fenomenali superpoteri, tra cui hacking mentale, sintonizzazione perfetta, trasmissione rave telepatica, mixaggio immateriale, capacità radiopirocinetiche, DJing neuronale. Grazie a Sonic Belligeranza Megastore, habitat per tutti Sonic aficionados, e il professor Giampiero Cane, critico musicale e scrittore. Ed eccoci a una nuova puntata di Muffanobile. E questa sera abbiamo una audiocassetta marca Maxell UD260 Minutes, molto interessante dal punto di vista di oggetto, con adesivi dorati, C90, scusate, qui c'è anche una simpatica discrepanza tra cover e contenuto. Cassettina che in questo momento sta venendo riavvolta a mano con la classica penna Bic. Si tratta di registrazioni per lo più domestiche di Nicola Alesini, romano, compositore, sassofonista, un appassionato esploratore di sonorità ispirate a ritmi, melodie della tradizione mediterranea, una musica che abbraccia un ampio universo nell'ambito del linguaggio artistico, integra parole, gesti, immagini, mescola jazz, musica popolare, ambient e world music. In questo caso il lato A è composto da registrazioni in duo domestiche, dalla prima traccia alla quinta e dal vivo dalla sesta all'ottava. Una simpatica freccia infografica rimanda dall'esterno della cover all'interno, in cui sono specificati gli strumenti suonati da Nicola Alesini in queste registrazioni: sax tenore, drums, programs, percussioni. C'è un numero di telefono antiquato, ma una bella reminiscenza dei tempi che furono. In duo con Nicola Alesini, Gianluca Taddei al contrabbasso. Asterisco ci dice che tutte le registrazioni sono amatoriali e prive di qualsiasi sovraincisione. Nel lato B troviamo invece altri due, tutti risalenti circa la metà degli anni 80, con un live dell'88 e un trio con A. Romeo, che viene poi riproposto anche in live. Una bella barra nera ci informa in un angolo della cover che c'è una poesia, con la poesia con Cosimo Cimieri e con Berta Furlani, su testi di Berta Furlani. Buon ascolto. Thank you. Thank you. all'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto e forse il sonno della morte m'enduro. Ove più il sole per me alla terra non fecondi questa bella d'erbe famiglia ed animali, e quando vaghe di lusinga innanzi a me non danzeranno l'ore future, né da te, dolce amico, udrò più il verso la mesta armonia che le governa, né più nel cor mi parlerà lo spirito delle vergini muse dell'amore, unico spirito a mia vita raminga, qual fia ristoro e di perduti un sasso che distingua le mie dalle infinite ossa che in terra e mar semina morte. Vero è ben Pindemonte, anche la speme, ultima dea fugge sepolcri, e involve tutte cose l'oblio nella sua notte, e una forza operosa le affatica di moto in moto, e l'uomo e le sue tombe, le estreme sembianze e le reliquie della terra e del cielo traveste il tempo. Senti raspar tra le macerie bronchi la derelitta cagna ramingando sulle fosse e famelica ululando, e uscir del teschio ove fuggia la luna lupupa, e svolazzar su per le croci sparse per la funerea campagna, e l'immonda accusar col luttuoso singulto i rai di che son pie le stelle alle obliate sepolture. Rapina gli amici una favilla al sole a illuminar la sotterranea notte, perché gli occhi dell'uomo cercan morendo il sole, e tutti l'ultimo sospiro mandano i petti alla fuggente luce. Le fontane versando acque lustrali amaranti educavano e viole sulla funebre zolla, e chi sedea li barlatte e a raccontar sue pene ai cari estinti una fragranza intorno sentia qual d'aura de beati elisi. Egregie cose il forte animo accendono l'urne dei forti o Pindemonte, e bella e santa fanno al peregrin la terra che le ricetta. Io, quando il monumento vidi ove posa il corpo di quel grande che temprando lo scettro ai regnatori gli allorne sfronda e dalle genti svela di che lacrime, grondi e di che sangue, e l'arca di colui che nuovo Olimpo alzò in Roma i celesti, e di chi vide sotto l'etereo padiglion rotarsi più mondi e il sole irradiarli in moto, onde all'anglo che tanta ala distese sgombrò primo le vie del firmamento, te beata gridai per le felici aure pregne di vita e per la patria che dei suoi giochi a te versa Appennino. Lieta dell'aer tuo veste la luna di luce limpidissima i tuoi colli per vendemmia festanti, e le convalli popolate di case d'oliveti mille di fiori al ciel mandano incensi. E a questi marmi venne spesso vittoria ad ispirarsi. Irato ai patri numi errava muto, ove Arno più deserto, i campi e il cielo desioso mirando. E poi che nullo vivente aspetto gli molcea la cura, qui posava l'austero, e avea sul volto il pallor della morte e la speranza. Con questi grandi abita eterno, e l'ossa fremono amor di patria. Ah sì, da quella religiosa pace un nume parla, e nutria con tre persi in Maratona, ove Atene sacrò tomba i suoi prodi, la virtù greca e l'ira. Il navigante che veleggiò quei mar sotto l'Eubea, vedea per l'ampia oscurità scintille balenar d'elmi e di cozzanti brandi, fumar le pire igno vapor, corrusche d'armi ferre, vedea larve guerriere cercar la pugna, e all'orror dei notturni silenzi si spandea lungo nei campi di falangi un tumulto e un suon di tube e un incalzar di cavalli accorrenti scalpitanti sugli elmi e moribondi e pianto e inni e delle parche il canto. Si chiamava Mohammed Shehab, discendente di emiri, di nomadi, suicida, perché non aveva più patria. Amò la Francia e mutò nome, fu Marcel, ma non era francese e non sapeva più vivere nella tenda dei suoi, dove si ascolta la cantilena del Corano, gustando. Questa notte passerà, questa solitudine in giro, titubante ombra dei fili tranviari sull'umido asfalto. Guardo le teste dei brumisti nel mezzo sonno tentennare. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, tra i morti abbandonati nelle piazze sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici per voto. Anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Io ti sento tacere da lontano, odo nel mio silenzio il tuo silenzio. Di giorno in giorno assisto all'opera che il tempo, complice mio solerte, va compiendo. E già quello che ieri era presente diviene passato, e quello che pensavamo incredibile accade. Io e te ci separiamo. Tu, che fosti per me più che una sposa, tu che volevi entrare nella mia vita impavida e ne fosti scacciata come d'inferno un angelo. Ora che t'ho lasciata, la vita mi rimane come un'indegna, un'inutile sola. Tauromachia. Quando lo seppe, era già accaduto. Accaduto da molti anni, inestinguibilmente trapassato nel rito statico dei gesti. Poteva contaminare una macchia fracassata negli alambicchi azzurrati in assemblaggio ritmico. Respiro d'asma sulla plancia. Poteva, nei cascami d'umori del giorno, trasudare le narici d'oliva, marcita sotto foglie di palma, ai muri della casa isolata. Per tutto il pomeriggio soffiò vento duro di mare, annunciato agli altoparlanti incarnati nei cespugli. Tamburi di nebbia fronteggiavano i ginepri. Allora chiese di tornare alle origini, prima dell'odore dell'aceto. Io so, disse riavvolgendo una vite nel suo passo, da 5 decenni un toro morto genera vitelli rosa. Il prossimo sarà senza occhi. Una macchina paralizzata allo svincolo del fronte mare. Lente bolle ondeggiavano, margini nausea all'orizzonte. Ammiccavano le petroliere. Gli sguardi assoluti del corpo si incrociarono sullo sfondo archetico. Respirarono l'arancio dell'aria, il sale di spessi capelli, corrose le guance, poi morì sotto l'inguine. Cartilagine, atto primo. Una cordata di mani s'avvita, venosa vertigine, e vira sull'ultima forma d'acciaio. Il fiato rilasciato pulsa la memoria uovo, il grembo s'acquatta ai reticolati pelvici, puntando le schiere dei segnalatori. Tra un istante trafiggeranno con aghi uncinati la capsula pellicola, fiotto umorale. È seduta sul lembo spremuto del cuscino, tormentandosi le pieghe dei ginocchi, sgusciata appena dai neri ballatoi dei palazzi malfermi che avvitano la notte, la sospingono nell'aria dei soffitti. Braccata nell'angolo, incatenato navigatore, non può toccarsi i piedi, toccare il suolo, non può sedersi. Trasudano le mani, alle caviglie gocce s'allungano sintetiche come colla liquida e premono ai malleoli. Le gemme stride, anelli concentrici tintinnano alle tempie. Un frignire di maniglie, frusciano passi diretti ai pulsanti. S'attiva il playback. Lievitava vento di maree, i terrazzi smerigliavano dal lume, si innescavano caleidoscopi nei grani di sabbia soffiata contro vento. La mano ripassò su foglie e lamine di nespoli artritici. L'ombra del muro a fronte dilatò in forma di coniglio, prima orecchie, poi labbra asinine, e smorfia, beffa, danza oracolo, cavità di raglio, di grigno acido, trabocco di incisivi. Incrinarono gassose nuvole zafferano. Rimase l'intarsio violato dei denti. Cartilagine, atto secondo. Dopo il vortice, i cicli di luna, i satelliti demagnetizzati, svaporò il ricordo. Passò i giorni dell'estate seduta al ramo basso del fico. La notte scavava corsie ghiacciate nei canali rarefatti ai campi della vecchia palude. S'allungarono, candelabri grondanti. Poi la punta fu acuta, sottile come bava, e si saldò, spirale, alla roccia. Monitor Festival. Corri, corri più forte. Hai 4 metri di vantaggio. Irrisolta la mascella dell'inverno addenta croste infette di pini di mare. Stagione domestica, sentinella della città. Visceri pendenti di belva anestetizzata che presto cadrà abbattuta e milioni di aghi teleguidati le morderanno il giallo degli occhi, appesi ai lampioni rabbiosi della piazza. La piazza apparve di sorpresa agli abitanti in fuga dalla nebbia diossina. Un raggio melograno debordò oltre il raccordo e salì inflessibile il tramonto. Dovrò forse pentirmi di quel ritardo rovesciato nel cuneo di mura prefabbricate, ora che incalzano i morsi di un ricordo incontinente, e bendarmi le mani prima che le rughe crepitino dentro il palmo. Thank you. prosegue più dura la corsa. Non m'avessi concesso il vantaggio, avrei capito i frammenti di strada corrosi e trascurato il gracidare di caviglie. Trapasserei il sudario più definita dell'occhio ramificato. Telecamera galattica vomita d'azzurro cordoni di vene cosmiche. Battono ai polsi radicati della belva che annusa l'aria costellata di monitor. Assenza di sensi. Lei si trascina le vertebre bilanciando sulla corda appesa sopra il campo malato degli aghi. La gola acida sotto bianco di sole. Urlano alle orecchie l'attacco finale. Aspira ancora, odore secco, e si sogna distesa su schiuma di canna ad allattare cuccioli di specie aliena. Esalano discarica di metallo, ma le lingue hanno un raspo dolce. Tormentano, si insinuano sempre più fondi nel grumo dei muscoli. Ritmo ossesso, esecuzione, end. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.